Corso basico di Kabbalah, parte 1, file audio 22. Ogni situazione, ogni stimolo che si verifica o in cui mi trovo deve essere considerata come Or Yashar, piacere. Seduzione, come bene positivo quanto negativo. Come gestisco questo? C'è la possibilità di avere la vittoria sulla situazione, lo stimolo? O in altre parole, come posso avvicinarmi all'esperienza dell'infinito, all'esperienza degli immutabili, alla totalità, all'obiettivo della creazione? Qualunque sia la situazione, devo essere consapevole di queste cinque domande. Queste cinque domande coprono ogni situazione. E formano i kli mancanza. E dove c'è carenza, c'è il bisogno di riempire le risposte. C'è solo una risposta eterna su ciascuna di queste domande. E ci danno la soluzione perfetta considerando il tuo infinito obiettivo. Ma non basta conoscere queste risposte. Abbiamo anche bisogno dei corrispondenti punti di forza per lasciar digerire queste risposte dentro di noi. Quando non c'è forza corrispondente, le parole vuote sono il risultato. La forza di ogni risposta costituisce la condizione della forza nell'ora. Come posso raggiungere questo? Devo portare la forza presente in conformità con la risposta eterna. Lo faccio interrogando queste cinque domande. O in altre parole, devo fare il lavoro interiore per cancellare la differenza, la differenza della situazione perfetta, l'obiettivo della creazione, meno la forza della situazione, la mancanza. E lo faccio per mezzo della meditazione, o in ebraico yichud. Solo allora potrò riflettere Or Yashar, o la situazione che ha pressione su di me, per mezzo di Or Chozer, la luce riflettente, e per questo ho bisogno di Masach, la forza di volontà per resistere. Di conseguenza posso calcolare E questo è un processo automatico. Quanto posso calcolare quanto posso ricevere in modo altruistico? E questo è un processo automatico. Lezione 18. C'è solo una cabala. Cabala. Mi sforzo per la vera cabala. O in altre parole, mi faccio ricevibile per la cabala. Esattamente 3 anni fa, e questo era scritto il 3 febbraio 2005, ho iniziato con la Kabbalah lezioni. A dare ai miei studenti. È stata una strada piena di prove ed errori, ma mi è stato dato da sopra che devo andare su questa strada. Penso che è sbagliato, eh? Era il 3 febbraio 2003, ma non importa. Quando qualcosa è dato dall'alto, bisogna farlo. Perciò ci provo. Cerco con il massimo sforzo per mantenere pura la cabala. E questo significa niente commercio. La traduzione che faccio. La traduzione dello Zohar e tutte le altre cose è unica. Nel mondo non c'è posto dove tu puoi trovarlo in questo modo. Vieni a sperimentare la Kabbalah. Non puoi impararla. È difficile capire quando dico che nessuno di noi è capace di dare, ma più tardi arriverai alla comprensione. Potrebbe esserci resistenza mentre leggi questo, ma sai che è il tuo intelletto che non ha alcun accordo con questo. Il tuo intelletto sta dicendo: puoi dare, guarda quanto dai. Ma il modo in cui si dà anche un po' è l'egoismo, puro egoismo. Ancora più in basso dell'egoismo. Ma più avanti impareremo di più su questo. È necessario che senti la Kabbalah. È impossibile imparare a capire la Kabbalah con la tua testa. O solo con la tua testa. In tutto il mondo non c'è persona che può e comprenderà la Kabbalah solo con la sua testa. Devi sperimentare la Kabbalah. Allo stesso modo devi sperimentare la luce. l'esperienza della luce nascosta. Dare è un movimento interiore e questo è molto difficile. Più e più volte ci sarà nel tuo sentire il senso di apparentemente caduta. Nota che non sei capace di dare e allo stesso tempo sei consapevole che cresci. Quel momento di cadere, quando senti che non sei capace di dare, ti avvicini alla totalità, al creatore Boré. La Kabbalah è dentro di te, è la tua organizzazione interiore. Sei tu che devi organizzare il tuo interiore, che è la Kabbalah. La Kabbalah è una storia raccontata dai più grandi kabbalisti. E parlo solo con te di quello che hanno detto. Traduciamo per te lo Zohar in modo puro, il più fedelmente possibile nel modo in cui il grande kabbalista lo aveva scritto. Non una traduzione di un'altra traduzione, solo lo Zohar puro, una traduzione integrale dello Zohar scritto dal grande kabbalista. Ti darò una traduzione il più pura possibile. Farò tutto ciò che è nelle mie capacità. Sto leggendo i libri di Ari, il più grande kabbalista di sempre. Non ho visto un altro più elevato di lui. Dire niente è più elevato in questo mondo significa, in confronto con l'istruzione dell'unica creazione di forza. Ti darò i brani di Ari e la sorgente naturale dello Zohar stesso. Nessuna parola, niente da me o da altri cabalisti viventi, solo Ari. Ari è ancora vivo per me. Io sento Ari che ha la vita eterna. Aveva raggiunto questo e quando tu leggi Ari senti anche la vita eterna. L'aveva attirato da sopra a qui sotto. E quando leggo questo, sento la forza della vita che scorre nelle mie vene. E questo succede solo quando leggo Ari. Ovviamente Yehuda Ashlag, che aveva scritto il commento sul Zohar, era anche lui molto elevato. Ma per me Ari è il più elevato e il più importante. Anche Yehuda Ashlag aveva preso da Ari. Traduco lo Zohar in un modo che non troverai mai. Nessun'altra traduzione sarà così pura. Vivo e mi siedo con Ari. Il salvataggio che io ricevo è con la via di Ari. Per mezzo di Ari io ricevo la luce. Ovviamente tutta la luce proviene da Ein Sof, dal Creatore, dal Boré. Lui è l'uno e l'unica sorgente. È possibile per noi che siamo così bassi a ricevere la luce senza una persona che ci ha mostrato la via giusta, il giusto sentiero? L'Ari ci ha dato il sentiero giusto. Quando tu dici, posso farlo proprio da me, sappi che è una reazione molto infantile. Quando dici che puoi farlo proprio da te, rimarrai sotto al livello spirituale. Sotto il livello della vita reale e sarà molto infantile. Ci sono già due libri, il manuale per la purificazione interiore e l'introduzione alla Kabbalah. Oltre a questo io inizio con lo Zohar. E lo Zohar è la crema della crema in tutti i livelli. La luce verrà da Zohar. Ti do la traduzione in ebraico più pura quanto possibile. Sarà come lo splendore del sole. Riceverai la luce per mezzo dello Zohar. Ti darò un breve commento proveniente dalle migliori fonti, per esempio Ari. Sarà come manna dal cielo. E questo funzionerà. Perché ognuno di voi riceve e assaggia. Ognuno di voi riceve il suo specifico gusto e questo è meraviglioso. I grandi stessi cabalisti avevano detto, leggi lo Zohar. Nonostante tu non possa leggere una parola ebraica, sarà di valore leggere la Zohar. Hai solo bisogno dell'ingrediente più importante, Kavanah, l'intenzione. E quando hai la Kavanah giusta, lo Zohar ti dà luce. Lo Zohar ti dà la sensazione, il potere di dare nel modo giusto. E questo sarà il tuo salvataggio. Dare in modo reale e puro. È il tuo salvataggio. Perciò leggi Zohar anche quando ti manca la comprensione. Io ti aiuterò, ti spiegherò, Così vedrai l'intero quadro. Ma non cercare mai di capire lo Zohar con la tua testa, con il tuo intelletto. Allora non funzionerà. È impossibile avere una certa comprensione quando leggi con il tuo intelletto. Renditi piccolo, minuscolo, umile. In un certo modo renditi invisibile. Solo il tuo interiore deve essere qui e l'esterno deve rimanere invisibile. E quando lo fai, il tuo ego cade addormentato. Quando rendi invisibile il tuo esterno, il tuo ego non sarà alimentato. Quando sei pronto con questo, leggi lo Zohar. Ma prima devi lavorare. Renditi piccolo, ma minuscolo, umile. Questo è il lavoro che devi fare. È meglio confondersi dall'apparente caos e poi essere addolcito per mezzo di belle parole. Non ti facilito il testo perché poi io butto via l'essenza. È meglio confondersi. Scegli per la confusione e non per una semplice lettura. Sei qui per sviluppare te stesso e dall'interno dello sviluppo prendi posto. Quando noti che non hai comprensione e pensi che ci siano degli errori, lascia che gli errori siano lì. Ti manca il sentimento per lo spirituale? Ecco perché pensi che ci siano degli errori. Non hai il sentimento per lo spirituale? Nessuno di noi ha questo sentimento. Devi essere molto paziente perché va molto lentamente. La pazienza è molto importante. Cerco di darti una traduzione il più pura e corretta possibile. Non posso tradurlo in un altro modo. La purezza è molto importante per me. Seguo le parole di Ari. Chi sono io per cambiare le cose? Perché da Ari io vedo la luce. Dovuto a lui mi sforzo per la luce. Cosa posso fare di più? Solo con lo Zohar puoi costruire il tuo futuro. Il lavoro è già iniziato. Mattone dopo mattone costruisci la luce dentro di te. Quando inizi a leggere lo Zohar, diventi consapevole di una nuova terminologia. Ma c'è un glossario di parole cabalistiche. Tutti i disegni che abbiamo e che arriveranno, disegnali dentro di te. Sei tu che impari la Kabbalah, quindi ricevili in te. Lascia che la Kabbalah ti aiuti e la comprensione arrivi dopo. Naturalmente la tua testa è necessaria, ma per ricevere la luce dentro di te hai bisogno dell'ingrediente più importante, Kavanah, l'intenzione. Il vero mondo spirituale è il mondo di tutti i desideri, desideri altruistici. Il nostro intelletto terreno ti dice: il mondo spirituale non ha nulla a che fare con i desideri. La creazione è troppo elevata. E la Kabbalah ti dice: l'Ein Sof e tutte le altre cose sono desideri. Desideri significa mancanza. La creazione è mancanza. Cos'è la creazione? Mancanza, ci manca la luce. Ogni cosa che era ed è creata appartiene ai desideri. I mondi superiori sono anche desideri, desideri spirituali. Come ho spiegato nelle lezioni precedenti, questi sono grossolanità della luce. Il primo nome del grossolano della luce è desiderio razzon. Il mondo spirituale è il mondo dei desideri. In un certo senso è una grossolanità specifica della luce. E il grossolano della luce è desideri. Per tutti gli esseri umani, ogni grado superiore, Madrigà, è come Ein Sof. Ein Sof è l'eternità da cui discende la creazione. Quel che non puoi sperimentare, quello che non hai o non hanno consapevolezza, è per te come luce e non Kli. Kli è il ricevitore. Apri te stesso e lascia che queste parole ti penetrino. Lascia che queste parole si risolvano in te. Il tuo intelletto non capisce e combatterà. Smetti di lottare e prendi solamente. Cerca di immaginarlo dentro di te quando già vive dentro di te. Quello che non sperimenti ancora è come luce per te. E ogni volta che hai una maggiore esperienza, un grossolano è stato tolto dai tuoi occhi interiori e allora potrai e puoi vedere. Vedere significa sperimentare e hai bisogno dell'esperienza per arrivare alla comprensione. Un cabalista continua ad apprendere fino a raggiungere la più alta comprensione, quello che per lui è la più alta comprensione. Ari e Yuda Ashlok avevano raggiunto il livello più alto, quello che per un intelletto umano può essere raggiunto. Certo, considerando la loro anima. Quindi puoi imparare da loro. Impari da loro il massimo, quello che viene dato alla tua anima. È sempre lo stesso passaggio. Non puoi dire io ho ricevuto la luce se non sai niente riguardo alla scala spirituale. Come puoi ricevere la luce? La luce cade dal cielo? La luce non cade dal cielo. Cosa puoi ricevere dal cielo? Dal cielo puoi ricevere pioggia, neve e misericordia, la luce rotonda. Questo è ciò che riceve un bambino, ma la luce diretta o riashar significa che hai un contatto con il creatore in modo diretto. Tu questo non lo ricevi. Per ricevere la luce diretta devi lavorare. È scritto, quando qualcuno ti dice, ho trovato la luce, ma non ho fatto alcun lavoro, o non sufficiente, non li credere. Nessuno riceve la luce gratuitamente per niente. Quello che ricevi gratis è solo la luce di sostentamento. È solo la luce per restare in vita. Il Creatore dà a tutti. Non importa cosa o chi è. La luce rotonda è lì per tutti. Perciò speriamo che sarai favorito a trovare la forza superiore. Forza che non diventerai una vittima del commercio. La nostra Kabbalah rimarrà pura e reale. È molto difficile per le persone, una volta che hanno i soldi, e quando altre persone li adorano. È possibile per ognuno di noi non cederli? L'elemento umano produce denaro per l'adorazione. È umano, ma perderai lo spirituale. Perderai la vita e essenziali, reali. Perciò stai molto attento. Devo essere molto attento anch'io. Oggi ne so molto, ma domani, quando inizia un nuovo giorno, non so nulla. È lo stesso per ognuno di noi. Ogni giorno devi preparare te stesso. Ogni giorno devi sacrificare il tuo ego. Ogni giorno ha bisogno del tuo sacrificio completamente. Cosa devi sacrificare? Solo il tuo ego. È il tuo cuore che sperimenta quel che stai facendo. Il tuo successo dipende dall'obiettivo che hai impostato. Qual è il tuo obiettivo? Puoi avere tutti i tipi di obiettivi. Vuoi sposarti? Avere figli? Vuoi questo e quello, eccetera? Ma qual è il tuo vero obiettivo? Concentrati sul tuo vero obiettivo e non illuderti. Vai sempre più in profondità dentro te stesso e cerca di avere un obiettivo. L'obiettivo spirituale eterno. Questo deve diventare il tuo obiettivo. Anche perché tutti i desideri terreni, tutti gli obiettivi terreni ti deluderanno. Qualunque sia il tuo desiderio terreno, sarai deluso. Non ci sarà mai la soddisfazione e rimarrai povero per sempre. Supponiamo che tu senta molto potere, ci sarà sempre l'ansia, che c'è un'altra persona che ha più potere di te. È lo stesso con i desideri che non sono collegati al tuo obiettivo principale, che non verrai alla tua realizzazione. Solo nello spirituale puoi venire alla tua realizzazione. Nello spirituale non diciamo «è un grande rabbino, è molto grande». No, perché? Perché tu hai sempre te stesso. Tu sei tu e il tuo obiettivo spirituale è qui. E non c'è inganno. Naturalmente potresti avere determinati obiettivi, ma lascia che il vero spirituale sia l'obiettivo più essenziale. L'obiettivo della creazione deve essere l'obiettivo più importante per te. Non c'è inganno in questo obiettivo, perché sarai in grado di gestirlo sempre. E con questo puoi affrontare ogni momento di sofferenza, miseria o qualsiasi altra cosa. Vado oltre con le cinque domande e le cinque risposte eterne. Questo deve essere per noi la nostra linea guida nella lezione precedente. Ti ho detto, c'è una situazione o condizione, luce, che vuole penetrarti. E le cinque domande e risposte sono what? Cosa? La mia reazione. When? Quando? Ora? Why? Perché? Correzione? Where? Dove? In me? Who? Chi? Me? È anche possibile rappresentarli in termini cabalistici, kli e or, desiderio e or, mancanza, domanda. All'interno di un kli hai una situazione o condizione che vuole avere il controllo su di te e vuole penetrarti. Una certa condizione ti darà la sensazione di depressione. È lo stesso con Oryashar. È la sua luce stimolante. E devo essere colui che può resistere. Attraverso Or José. Perciò hai bisogno di queste cinque domande e di queste cinque risposte eterne per costruire la forza dentro di te e chiederti queste domande con tutto il tuo cuore e darti risposte oneste. Hai bisogno di tutte queste risposte eterne dalla prima alla quinta domanda. Solo in questo modo puoi ottenere qualcosa. Ma cosa ottieni? Quando rifletti su una situazione, significa che hai forza dentro di te, ma non dai a una situazione o condizione una possibilità di penetrarti. È lo stesso con i sentimenti che ti piacciono. Ad esempio, puoi trovare molto amore, ma devi essere molto attento per le cose che cercano di sopraffarti. Devi andare oltre la tua forza, significa costruire in te la forza di dire: questa è la mia reazione. Ricorda che è sempre la tua reazione. Quando puoi dire questo? Solo nel presente e non quando sei nel passato. Quando ti svegli al mattino, hai fatto un sogno, non pensare al sogno che appartiene già al passato. Era parte della tua assimilazione. Vivi sempre nel presente. Conoscere il perché è sempre correzione. qualunque fosse il sogno. Di a te stesso era una correzione. Lascia andare la domanda del perché. Perché poi ti avvicini alla domanda in una maniera intellettuale. In un certo senso non pensarci, o in altre parole non avere alcun interesse per esso. Quando non ti è chiaro, non chiedere. Nei primi tempi c'erano profeti che avevano tutti i tipi di visione. Ma era allora. Per persone erano nel bisogno, perché il loro sviluppo non era nel modo come noi lo vediamo all'oggi, al giorno d'oggi. La Kabbalah ti dà risposte chiare, perciò lascia andare il tuo sogno e stai nel presente. Ora sappiamo che i sogni sono necessari ad assorbire le cose che facciamo durante il giorno. Imparando la Kabbalah, la tua mente riceverà chiarezza e non nei tuoi sogni. Nei tuoi sogni vai attraverso le tue cose. Che cosa stai attraversando quando sogni? Di notte, quando dormi, è solo il tuo corpo fisico che giace lì. Dov'è la tua anima quando dormi? Quello che giace nel tuo letto è il componente inferiore, una componente molto bassa di te. Quello che rimane indietro è il tuo animale, come anima, e ogni cosa che è superiore ti lascia durante la notte. Cosa vedi nei tuoi sogni? Trascura i tuoi sogni. Quindi, qual è la correzione? Quando ti trovi in una situazione specifica, sii ricevibile per queste domande eterne. Cosa? Quando? Perché? Dove e chi? Attraverso la Kabbalah impari a investigare su ogni cosa. Indaghiamo il Creatore e non le immagini religiose così fredde. Queste sono cose infantili. Sappi che tutti i tipi di preghiere religiose non hanno valore. Le preghiere religiose sono per i bambini. Non pensare che una preghiera religiosa sia una cosa come un verso che dice con la tua bocca. Tu devi investigare. La vera preghiera è lì per aiutarti a venire in relazione con qualcosa di superiore, cioè il tuo grado superiore. Avete bisogno del desiderio per il nuovo grado superiore. È il desiderio per la comprensione di questo nuovo grado superiore. Ora ti trovi in un grado inferiore. hai bisogno del desiderio di evadere da questo grado a causa del grado più alto. Questo è quel che importa, e non che tu non stai bene. Quando non ti senti bene è importante per te perché ti stai sentendo in questo modo. E voglio dire qualcosa di più. Quando fai bene, vivi bene, e anche se ti senti male, sai che è buono per te. È buono per te sentirti male, ma non rimsuanare a lungo in questa sensazione. Non appena hai questa sensazione, chiedi a te stesso queste cinque domande e datti queste cinque risposte. E per questo hai bisogno di forza. Non dire che ogni cosa è perfetta. Naturalmente puoi dire questo, ma devi stare attento e lavorare con queste domande. Quando sei svinito è troppo tardi? Stai attento quando inizia questa sensazione. Perché quando senti il primo stadio, qualcosa ti vuole sedurre, e senti che ti manca la forza per resistere alla tentazione. Inizia a lavorare con le domande e le risposte. Non lasciarle entrare completamente. Lavora con le domande e sai che tutto è nelle tue mani. Questa soluzione è data a noi. È per ognuno che vuole prevenire la depressione. È per lui o per lei che vuole prevenire la sensazione di non stare bene. Quindi, non aspettare a lungo. Quando trascuri questo, tu senti pietà e ti senti triste. In ogni situazione, sii in tempo per confrontarti con queste cinque domande e portare la forza per dare queste cinque risposte eterne. Conoscere queste risposte è sempre giusto fino all'arrivo del Messia, Messia, l'eternità. Qualunque sia la situazione, puoi dirti: qual è la mia reazione? Sii onesto con te stesso e senti la forza di dare a te stesso una risposta eterna. Questo è il lavoro che devi fare, quindi farlo.